Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo di innovazione, parliamo di ricerca, parliamo di eccellenze, parliamo di Made in Italy. Ne parliamo con Paolo Gila. Buonasera Paolo Gila. Buonasera Gianfranco Fabi e buonasera a tutti voi. Paolo Gila è giornalista, scrittore, lavora alla RAI, spesso l'avete sentito commentare la borsa e i temi economici, ha scritto numerosi libri, soprattutto in campo ovviamente economico e finanziario, e l'ultimo libro è Ho visto più lontano, viaggio inchiesta tra l'eccellenza della ricerca e di Made in Italy, edito da Guerini e Associati. Ecco, un libro che affronta una delle contraddizioni del sistema italiano, proprio di contraddizione si parla nelle prime pagine, un sistema che fa poco per la ricerca, spende poco per l'innovazione, ma che comunque ha delle eccellenze. Allora, perché questo viaggio nella ricerca e nell'innovazione, Paolo Gila? Sì, il viaggio comincia da una domanda. La domanda è: come è possibile che l'Italia dal 2007-2008, da quando è partita la crisi, abbia perso una quota di PIL e abbia perso una quota rilevante di produzione, il 25%, e riesca tuttavia a mantenere alta la sua capacità creativa, la sua voglia di innovare, la sua voglia di arrivare a essere tra i primi laddove è possibile. E soprattutto in questo periodo, che cosa abbiamo perso della ricerca italiana? Ci sono dei brani della filiera imprenditoriale che si sono smarriti, e ce ne sono altri che invece hanno trovato modo di rinvigorirsi o di crescere ex nihilo, dal nulla. Ecco, il viaggio esplorativo parte da questa domanda e sono state trovate diverse risposte, perché il libro è stato fatto su due piani. Da una parte si è cercata una documentazione economica per capire le tendenze in atto, e dall'altra si sono intervistati personaggi famosi della ricerca, i numeri uno di diversi settori. Così ad esempio nella matematica si è intervistato Di Freddi, nella fisica le testimonianze sono di Fabiola Gianotti e Carlo Rovelli, nella chimica Katia Bastioli, nell'astrofisica Giovanni Bignami, e così via, tanti altri. Il risultato di questa ricerca è molteplice, perché noi abbiamo visto che le filiere produttive, industriali, non sono state cancellate, sono dimagrite, sono indebolite, ma la voglia di fare ricerca è ancora alta. Ecco, con risultati anche molto positivi sul fronte proprio della presenza internazionale. Ha ricordato Fabiola Gianotti alla direzione del CERN di Ginevra, matematici che hanno una posizione di rilievo all'interno del sistema scientifico internazionale, e un sistema scientifico che guarda sempre gli Stati Uniti, se guardiamo ai Nobel ovviamente hanno una miopia sotto certe prospettive, però l'Italia ha a livello proprio di personalità una capacità di imporsi. Questo conferma un po' la realtà italiana, fatta di persone creative, di persone dinamiche, di persone che sanno approfondire i temi scientifici. Ecco, perché questo distacco poi tra una realtà di persone eccellenti, di grandi potenzialità, e invece un'immagine dell'Italia che è quella sempre un po' arretrata? Paolo Gila. Ecco, perché noi abbiamo un grande tronco nell'albero della nostra conoscenza e della nostra attività imprenditoriale. Questo tronco deriva dalla nostra cultura, soprattutto universitaria, che è riconosciuta di primissimo livello. E molto spesso i nostri laureati diventano ricercatori presso centri di ricerca internazionali. Pensiamo al Fermilab, dove ci sono 120 italiani. Ecco, da questo tronco, tuttavia, nel corso degli ultimi anni, non stanno nascendo nuove imprese di una certa dimensione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che produciamo molte intelligenze, molta conoscenza, ma abbiamo poca capacità di tradurre in attività pratiche questa conoscenza. Abbiamo molti rami che nascono da questo tronco e soprattutto le nuove attività nascono come ramoscelli da tronchi che sono secondari. Faccio un esempio. Oggi si parla molto di start-up, di aziende innovative. Queste sono oltre 5.500, però solo poche di queste riescono ad attrarre intelligenze, capacità, diciamo così, a creare occupazione. Che cosa emerge da questo quadro? Emerge che noi abbiamo un'elevata capacità conoscitiva, abbiamo una scarsa propensione a tradurre in idee imprenditoriali le nostre capacità di conoscenza e molto spesso sono imprenditori che nascono dalla virtù artigiana del saper fare, del trovare un accomodamento. Ecco, molto spesso le soluzioni nascono da questo livello, proprio perché il tessuto produttivo italiano è caratterizzato da un'elevata presenza di piccole e microimprese. Ecco, in questa prospettiva può servire a qualcosa, anzi speriamo che serva a qualcosa, la domanda è un po' retorica, un'iniziativa come quella che si sta sviluppando un po' a fatica, devo dire, sui luoghi dell'Expo 2015, l'Human Technopole, questo centro di ricerca dove dovrebbero convergere le università milanesi, dovrebbe essere avviato anche con l'Istituto di Tecnologia di Genova e questo ha creato qualche malumore, come sempre capita in Italia, però qualcosa si sta facendo, ecco. Realtà come queste possono essere importanti per rilanciare quell'innovazione che è fondamentale a tutto il sistema produttivo italiano? Sì, è importante ed è un modello che è già stato realizzato all'estero. Ho citato prima il Fermilab, è una realtà che nasce dall'unione di forze private, capitale anche pubblico, e che ha una caratteristica, nasce dall'alto e si innerva nel basso. Si attuano programmi e progetti intorno a cui si creano delle aggregazioni. Le aggregazioni nascono attirando le forze che vengono dal mondo universitario, dalla ricerca pubblica, ma anche dalle imprese private. Quello che si sta cercando di realizzare a Milano è un importante tassello perché permette di poter aggregare intelligenze, idee, competenze con un aspetto molto fondamentale che è perseguito all'estero, soprattutto in America, ma ora anche in Cina, che è quello della multidisciplinarietà e della interdisciplinarietà. Che cosa vuol dire? Multidisciplinarietà vuol dire avere all'interno delle proprie strutture, capannoni, aule, diverse discipline, che possono essere la matematica, la chimica, l'epistemologia, l'astrofisica. L'interdisciplinarietà è la possibilità di far dialogare tra loro e far comprendere tra loro le diverse conoscenze, quindi permettere a un fisico di comprendere che cosa dice un chimico e a un chimico far comprendere che cosa dice un astrofisico. Ecco, questo in realtà, come il Fermilab, ma pensiamo anche all'MIT di Boston, si realizzano, sono modelli che si stanno cercando di attivare anche in Italia. Alla SISA di Trieste c'è la possibilità di realizzare questo modello di integrazione e di dialogo tra conoscenze diverse, perché ricercatori, laureati provenienti da diverse discipline trovano la possibilità di discutere intorno a tavoli che riguardano diversi progetti, come può essere la fisica delle particelle o l'astrofisica, ecco, hanno la possibilità di interagire e di confrontarsi attraverso punti di vista diversi. Ecco, questo è importante appunto nella prospettiva di una collaborazione anche all'interno di una realtà italiana che è molto diversificata. Ci sono elementi che forse si conoscono poco che stanno portando avanti anche delle iniziative molto importanti. Per concludere, Paolo Gira, in questo viaggio hai fatto tanti incontri. Quale incontro ti ha appassionato di più, su cui magari potrai scrivere un libro per estenderlo meglio, per raccontarlo meglio? Beh, diciamo che uno degli incontri più vibranti è stato quello con Giulio Giorello, che ha esaltato la libertà di pensare, la libertà di poter andare oltre gli orizzonti, i paradigmi, nel rispetto della società. ha tratteggiato le linee di un grande pensatore contemporaneo, Paul Feyerabend, che in numerosi scritti ha difeso il valore della libertà. La libertà nella ricerca è fondamentale, come è fondamentale nella imprenditoria. Dobbiamo sostenere la libertà non per faziosità politica o partitica, ma perché è la condizione necessaria per poter agire in un mondo nuovo che sta cambiando. Mi permetto di citare due dati che sono significativi. Oggi in ricerca gli Stati Uniti investono 460 miliardi di dollari, l'Europa dei 29 paesi ne investe 250, esattamente la metà, ma pensiamo che la Cina l'anno scorso ha investito in ricerca 340 miliardi di dollari. La Cina, un solo paese, ha superato il totale degli investimenti di tutti i paesi europei. Stiamo assistendo a uno spostamento di baricentro delle potenzialità creative e ideative da un settore, quello occidentale, a un altro che è tutto in divenire. Grazie Paolo Gia, i soldi sono importanti, non sono tutto, ma un po' aiutano anche nel campo della ricerca, ma è importante anche quello che dicevi, sostenere la libertà, la creatività, la possibilità appunto di percorrere questi cammini di crescita, dando delle speranze soprattutto per i giovani, e questo libro offre molte speranze. Ho visto più lontano, questo il titolo, Viaggio inchiesta tra l'eccellenza della ricerca del Made in Italy, edito da Guerini e Associati, sono 216 pagine per 18,50 euro. Grazie a Paolo Gira, grazie a quanti ci hanno ascoltato, l'appuntamento con Economia in Pagina è per sabato prossimo.